guarda soltanto per la piacevolezza che mi comune. Sembra di essere cullato piacevolmente dalle onde, traiato su una barchetta, in situazione di totale sicurezza. In questo movimento, non so, della mia